Storie, storielle, storiacce. Contattai Ludwig perché parlava tedesco e la missione era Karlsruhe, ma poi non se ne fece più nulla. Torna indietro con la memoria Marco Bernardini e ci spiega il retroscena della cosiddetta Operazione Kaiser, voluta da Giampaolo Spinelli, ex CIA, suo ex socio. Spinelli l'ho conosciuto quando svolgevo l'attività per la presidenza del Consiglio nel 91 e nel 92 chiese il mio intervento per monitorare l'inizio delle ostilità nell'ex Jugoslavia. Col nulla osta dell'allora direttore e con il placet del mio capocentro, io cominciai a lavorare per l'organismo di Spinelli. Lei comincia a collaborare con la Global, giusto? Sì, nel 2000 lo Spinelli mi dice appunto che lui aveva iniziato a lavorare per la Pirelli, aveva bisogno di un link in Italia diretto, però lui lavorava congiuntamente con la Police d'Istinto, per cui gli incarichi venivano dati alla Police d'Istinto e poi la Police d'Istinto me li girava a me. L'inchiesta sulla presunta Spectre, capace di mettere in pericolo, secondo il GIP, i principi costituzionali del paese, si lega così con quella per il rapimento di Abu Omar. Ludwig, infatti, è il nome di battaglia di Luciano Pironi, l'ex maresciallo del ROS, che ha ammesso la sua partecipazione alla Extraordinary Rendition della CIA, con l'aiuto anche del SISMI. Per la Procura di Milano, sì, appartengono al nostro servizio segreto militare alcuni telefoni rintracciati nelle indagini e a individuarne gli utenti fu Adamo Bove, manager team, morto a luglio dopo un volo sulla tangenziale di Napoli. Marco Bernardini è tra quanti non crede al suo suicidio. Adamo Bove è una persona estremamente limpida, corretta. Lei aveva anche conosciuto Adamo Bove. Quando ha saputo della notizia della sua morte, cos'è la prima cosa che ha pensato? Devo dire, la prima cosa che ho pensato, a parte il dispiacere, ma è stata perplessità, perché era una persona che soffriva di vertigini. Quindi mi sembra impossibile quello che è successo. Ecco. E fra l'altro è proprio un fatto secondo me doveroso, proprio perché i morti non possono rispondere, che molte cose vengono attribuite a lui adesso. Non ci credo assolutamente. Anche come è stato riportato sulla carta stampata dell'uomo misterioso che andava la notte in ufficio a parlare, a riferire, io, quell'uomo misterioso che di sera andava a riferire, a parlare con Bove, ero io. Ma per un motivo proprio di praticità d'orari, non perché ci fossero misteri particolari dietro. A Bove riferì anche quanto scoprì sul mercato dei tabulati telefonici, retroscena anche di altre inchieste partite dalla violazione di banche dati riservate. Lei conosce Pierpaolo Pasqua? Chiese il PM a Bernardini. Lazio Gate, Pasqua viene considerato il punto di contatto tra i fornitori di informazioni e lo staff dell'allora governatore del Lazio, Francesco Storace. Ed è proprio l'incarico che io avevo specifico da Tavaroli e da Bove, era di dare la caccia ai dipendenti che si vedevano i tabulati e sapere a chi andavano. E lei era riuscito a venire a capo? Sì, ci sono state delle cause che ha fatto l'azienda per licenziamento a questi dipendenti infedeli. Poi l'esito, penso l'iter processuale sia ancora in fieri, però ecco non... Vendevano tabulati telefonici a chi? Ma non solo tabulati telefonici, vendevano anche traffico di SMS attraverso i call center, sconti promozionali, azzeramento di traffico telefonico e quant'altro. Chi erano i destinatari? Guardi, gli acquirenti a volte erano privati e a volte erano agenzie investigative. E lei è riuscito a risalire anche alle ragioni? Ma le ragioni erano quelle probabilmente che un marito chiede il tabulato della moglie perché sospetta che lei possa avere una liaison con qualcun altro. Nelle attività investigative a volte c'era anche la consultazione di fascicoli dell'intelligence, questo aveva un prezzo? Guardi, su quello che faceva la Police d'Istinto io non entro in merito, quello che facevo io non ho mai consultato fascicoli di nessun tipo di intelligence. 3.500 euro. Sì, ma questa c'è un'inchiesta in corso. Io non l'ho fatto. Il prezzario l'ho letto sui giornali e peraltro le posso dire che mi sono ben guardato dal farlo, perché comunque non ho nessuna intenzione di mettermi contro certi organismi. Quanto costa, ad esempio, assoldare una persona che vada a controllare, a seguire, piuttosto che a fare delle foto su un citofono? Dipende dalla persona, dalla città? Dipende se la foto sul citofono io la faccio a Bogotà o a Caracas, o la foto sul citofono la faccio a Roma. Quindi già questo è un costo diverso. Le foto sul citofono fatte a Benetton o a Della Valle? Ma quelle potranno costare 50 euro, non di più. Vale a dire, il costo è quello di un operatore che va lì. L'importante però non è la foto sul citofono. Cioè la foto sul citofono è la dimostrazione che l'operatore lì è stato e dimostrare che lì effettivamente c'è una residenza o c'è una società. Quindi dov'è? È vero la foto sul citofono, però è anche vero che le foto, soprattutto sulla certificazione del fornitore, hanno una importante, sono un importante parametro di valutazione per chi deve affidare poi degli incarichi lavorativi a società esterne. A Bernardini il gruppo Pirelli Telecom affidò anche l'operazione Brasile. Quello che dovevo fare in Brasile era, prima di tutto, evitare che la Kroll continuasse ad attaccare il gruppo in maniera non convenzionale. E quindi l'incarico che mi venne dato da Tavaroli fu proprio, dice, guarda, se qualcuno ti chiede cosa devi fare per il gruppo giù in Brasile, devi difendere in maniera opportuna da attacchi non convenzionali la proprietà. Quindi acquisire una serie di informazioni sui concorrenti? Sapere come si stava riorganizzando la Kroll per colpire e per creare problemi alla proprietà. Tenendo presente che la Kroll, già al tempo di Colaninho, aveva cercato di screditare i vertici dell'azienda in più occasioni. Quindi la Kroll ha fatto due operazioni nel tempo. Una era mirata per incarico, presumo, della Carla Cicco e di Daniel Dantas, a colpire la Telecom nei suoi vertici, chiunque essi fossero. L'altra invece era una guerra per colpire proprio la famiglia Tronchetti Provera e per colpire la Pirelli, ma questa comincia prima dell'acquisizione della Telecom. Nasce addirittura dalla Tunisia. Cioè già in Tunisia in passato mi ero trovato a vedere dei fornitori che erano riconducibili alla Kroll, cioè provocatori della Kroll. Lei ha raccontato di un episodio di un CD, dice che se gli avessero trovato appunto questo CD sarebbe stato un colpo per me e per Tavaroli. Perché anche per Tavaroli? Allora, l'episodio si riferisce al giugno del 2005. Il dottor Iannone, che dirigeva la security, si affidava per le attività investigative a un ex della Polizia Federale. Questo João Álvaro della Polizia Federale io ritenevo che non fosse cristallino nei confronti del gruppo. João Álvaro produce un CD con verbali di interrogatori sulla Kroll e quant'altro al dottor Iannone, che mi chiede di portarlo in Italia per consegnarlo al collega, al vostro collega. Sapendo il contenuto, io ho ritenuto che così istintivamente fosse poco opportuno portarlo con me. Sarebbe stato un danno notevole, perché il Tavaroli era già stato perquisito nelle sue abitazioni a maggio del 2005. Se fosse stato trovato un CD che conteneva dati riservati, usciti da interrogatori riservati da un paese straniero, avrebbe messo in difficoltà sia l'immagine del gruppo in Brasile, sia sicuramente avrebbe provocato un terremoto all'interno della security. Iannone era il manager che, secondo l'accusa, gli indicava le persone da avvicinare in Brasile. Tra questi, secondo il quotidiano Veja, anche Alexander Paes dos Santos, il lobbista più enrolado, più inserito, scrive la testata brasiliana, nei cui uffici a Brasilia lavorerebbe anche il figlio del presidente Lula da Silva. Ricapitoliamo. I protagonisti dell'inchiesta sono Giuliano Tavaroli, ex responsabile sicurezza Telecom, ed Emanuele Cipriani, titolare dell'agenzia di investigazioni private Polis Distinto. Avrebbero, secondo l'accusa, messo insieme migliaia di dossier illeciti, drenando soldi al gruppo Telecom Pirelli. Pierguido Iezzi, anche lui arrestato, aveva sostituito Tavaroli alla guida della security. Caterina Plateo, invece, è l'impiegata team i cui interrogatori sono diventati il j'accuse di un sistema. Tiziano Casali, infine, è l'uomo che da anni cura la sicurezza personale di Marco Tronchetti Provera. Se le dico qualche nome, il primo è Tavaroli. Un'intelligenza superiore. Cipriani. Ruvido, quando si stabilisce un accordo lavorativo e poi uno dei due comincia a tradire la fiducia, nel senso che si approfitta della buona fede per non pagare e pagare di meno, a quel punto io prendo le distanze. Il comportamento che lui ha avuto nei confronti di Tavaroli, che lo ha aiutato sempre, lo trovo deprecabile. Se le dico invece Plateo? Ma probabilmente una persona parzialmente insoddisfatta della sua vita affettiva e professionale. E se invece io le dicessi Tiziano Casali? Una persona estremamente schietta. È il responsabile della scorta del dottor Tronchetti Provera, un ragazzo dell'Italia sana. Iezzi? Iezzi è una persona che ha gestito la security Pirelli imitando Tavaroli, ma non avendo nello spessore. L'ultimo che le chiedo è proprio Tronchetti. L'ho visto solamente due volte, una volta in occasione a Barcellona del meeting in cui conobbi anche Giuliano Del Re, ma non di persona, solamente perché il mio compito era creare l'elemento imprevedibile in caso di tentativo di attentato o di attacco alla sua figura. Lei racconta anche che Spinelli le dice di pagare il prete. Sì, è vero. Chi è il prete e perché lei doveva pagarlo? Il prete era il nome in codice con cui chiamavamo Fabio Ghioni. E il motivo per cui Spinelli mi dice di pagarlo potrei violare il segreto istruttorio. 410.000 euro. Comma 2. Lui faceva un'attività, non so se la continua a fare o meno, che era un'attività di monitoraggio e praticamente la sua era la direzione IT. Fatto sta che comunque, mentre Tavaroli viene sospeso, Fabio Ghioni con altri della security, che erano persone che rispondevano direttamente a Tavaroli, sono rimasti comunque al loro posto. Nella ricerca dei dipendenti infedeli, io avevo riferito un episodio che sicuramente non deponeva a favore di Fabio Ghioni al Tavaroli. Questo avveniva nel Natale del 2004. So che Tavaroli chiese un audit su Ghioni. Il risultato dell'audit è che Tavaroli è uscito e Ghioni è rimasto. Quindi godeva di protezioni in alto. Eccoli i segreti, le accuse, ora al vaglio degli inquirenti del pentito dell'inchiesta Telecom, Marco Bernardini, ex agente del SISDE, detto Mordecai. Questo era il nome di battaglia, dato che operavo molto nel Medio Oriente. Mi avevano soprannominato, dopo una brillante operazione, fui soprannominato Mordecai. Era il comandante della spedizione del Mossad nel raid di Entebbe quando l'intelligence israeliana liberò in poche ore gli ostaggi di un aereo dirottato. Storie di spie.